L'organo sensorio spirituale che risiede nella vicinanza della laringe dà la possibilità di penetrare con lo sguardo chiaroveggente nel modo di pensare di un altro essere animico. Schiude anche una visione più profonda nelle vere leggi dei fenomeni naturali. L'organo nelle vicinanze del cuore conferisce la conoscenza chiaroveggente del modo di sentire di altre anime. Chi lo ha sviluppato può anche riconoscere talune forze più profonde negli animali e nelle piante. Per mezzo del senso che risiede nelle vicinanze della cosiddetta bocca dello stomaco, si consegue la conoscenza delle capacità e dei talenti delle anime. Permette di vedere la parte che è animali, piante, pietre, metalli, fenomeni atmosferici e così via hanno nell'economia della natura. L'organo vicino alla laringe ha 16 petali o raggi. Quello nella regione del cuore ne ha 12. Quello nella vicinanza della bocca dello stomaco ne ha 10. Ora, alcune attività animiche sono connesse allo sviluppo di questi organi sensori. Chi le pratica in un ben determinato modo dà un certo contributo allo sviluppo del relativo organo sensorio spirituale. Del fiore di loto a 16 petali, 8 petali furono già formati nel remotissimo passato, durante uno stadio precedente dell'evoluzione dell'uomo. A tale sviluppo egli non ha portato alcun contributo, li ha ricevuti come un dono della natura quando ancora era in uno stato di coscienza trasognato ed ottuso. A quel gradino dell'evoluzione dell'umanità essi già erano in attività, però quel genere di attività era adatto soltanto a quello stato ottuso di coscienza. Quando più tardi la coscienza si rischiarò, quei petali si oscurarono e posero termine alla loro attività. Il discepolo può sviluppare da sé gli altri 8 petali per mezzo di esercizi coscienti. Solo allora l'intero fiore di loto diventerà luminoso e mobile. Come appunto è stato accennato, l'uomo può sviluppare coscientemente 8 di questi petali. Gli altri 8 ricompaiono poi in modo autonomo. Il loro sviluppo si svolge nel modo seguente. L'uomo deve porre cura ed attenzione a certi processi animici che compie di solito senza preoccupazione e attenzione. Tali processi sono 8. Il primo riguarda il modo di far proprie le rappresentazioni. In genere l'uomo a questo riguardo si mette del tutto al caso, odia o vede questa o quella cosa e forma di conseguenza i suoi concetti. Ma finché procede così, il suo fiore di loto a 16 petali rimarrà del tutto inattivo. Soltanto quando intraprende la propria autoeducazione in questa direzione, esso comincia ad attivarsi. A questo fine deve sorvegliare le proprie rappresentazioni. Ogni singola rappresentazione deve acquistare significato per lui. In ognuna di esse deve vedere un determinato messaggio, una comunicazione intorno alle cose del mondo. Non deve contentarsi di rappresentazioni che non abbiano tale significato. Deve dirigere l'intera sua vita concettuale in modo che essa diventi uno specchio fedele del mondo. Deve adoperarsi per allontanare dalla sua anima rappresentazioni errate. Il secondo processo animico riguarda in modo analogo le risoluzioni del discepolo. Anche in ordine alle cose più insignificanti, deve prendere una risoluzione soltanto dopo matura e seria riflessione. Deve tenere lontano dall'anima ogni azione sconsiderata, ogni attività senza significato. Ogni suo atto deve cioè poggiare su motivi ben vagliati, rinunciando a ciò che non è determinato da una valida ragione. Al terzo processo si riferisce al parlare. Le labbra del discepolo devono proferire soltanto ciò che ha senso ed importanza. Ogni discorrere per il piacere di parlare lo distrae dalla sua via. L'abituale modo di intrattenersi in cui si discorre alla rinfusa di soggetti più svariati deve essere evitato dal discepolo. Non deve però rinunciare alle relazioni con i suoi simili. Appunto, intrattenendosi con loro, la sua conversazione deve diventare significativa. Egli discorre e risponde ad ognuno, ma lo fa con riflessione e a ragion veduta. Non parla mai a caso. Cerca di non usare né troppe poche parole.